Ci troviamo a Porto Torres, io scendo dice va bene, te lo prendi, è molto bello quel microfono. Bomba è una bomboletta, no, io si chiama Zeus. Stava gara, aspetta. Dai, salto. C'è normale. Va bene, lo stesso. Cosa sembra normale? Bene, va bene, senza problemi. E tu bene mi ascolti? Quando scala tu, non ci stanno problemi, capito? Siamo lontano, l'ho detto, la modulazione è buona, è normalissima, con un microfono suo. No, no, no, normalissima, piena, non c'è nessun vuoto, bella che perfetta la modulazione, anche la radio. Ragazzi, non già funziona bene questo apparecchietto, di quelli che vende Fuggiaro, capito? Ah, e che cos'è? Ma fagliette, ho fagliette Zeus, hai capito? Ah, ti ho capito, io. Funziona bene, dai. Mister, c'è lo smitter digitale, cosa, quando parlo alza la fare, i bracini alzano, quando modulo, ho capito. Ci ho capito, vabbè. Praticamente è lo smitter luminoso. Ma porca mia! Tutto blu. Ciao Luca. Faccio vedere, allora. Con che sto parlando? Con cosa? Forse la motrice falsa. Non dice niente. Ecco, non mi senti. Buonasera, ben ascoltato Luca. Non sono arrivato qua. Mi senti, sì. Senti a Daniele. Tu guarda perfetto, lo sento. Non sento per niente. Lo strano. Come non mi ascolti, Luca? Qua Sant'Orsola è. Arriva, Daniele, senti? Eia! Ma sei basso, basso, sono da QRM. Vedi se mi ascolti adesso. Cosa ne so, Luca? Può darci che sia da una ombra? Guarda, Sant'Orsola, sono arrivato a QRM, ma sono in male. Ma c'è che sia zona d'ombra e magari non abbia il varco per casa tua. Come mi senti Luca? E come me sono, ha problemi Luca e ascolto, perché così sta succedendo bene, anche da poco c'ho problemi e ascolto. Luca, ma mi ascolti o no? Non risponde più, non lo so. Attenzione Lucariello, Lucariello, è impossibile che non mi ascolti, capito? Mi sentivano anche a papapango stasera, capito la bretella? Facci di intero, ma tu non ti indico, allora di tutto il Antonio. No, non abbiamo attaccato niente, è tutto staccato, ce l'abbiamo anche in macchina la scatoletta adesso, ma è tutto staccato, capito? Sicuramente c'era qualcosa che fa male di trovare, perché è lì dove c'è il supermercato a Sant'Orsola, via Cesare, c'è la Vespa. Ma è tutto bene, Daniele, benissimo, non bene, ma prima non ti sentivo niente, proprio nel quadro di essere tu in mezzo, sentivo basso, guarda, tu mi hai parlato, non stai parlando. Se ti senti anche io, ti devo sentire per forza anch'io. Per forza. Ma adesso un segnale nuovo, ma ti devo sentire. Sicuramente in un punto che magari era un po'. No, punto d'ombra, ecco. Gava. Ehi. Ti ho visto l'altra volta. Guarda. Ero io morto, ma ti sono andato un altro giorno, vabbè, 10-15 giorni fa. Sì, Mario Bomba, campo 4 watt. Vai, Daniele. Ma salutoni, mo, se c'è passa. No, ci siamo già. salutarti, che ti sto dicendo. Mi chiedi coglione Anderson. Ciao, ma ti sento salutarti. Ciao, ti ascolto un bel basso, ancora 8 e mezzo, ma la radio è bassa, ti ascolto. Ma come ti ascoltavo una volta, blu? Sì, ma pare sempre che sei con la lanterna. Scusate, ma non ascolto i saluti, dai. Ciao, dai. Non c'è problema. Ma che? Noi in questi giorni saldiamo quel PL, eh? Positivo che fa le cose. Va bene, Daniele, dai, con 144 ore lo fai e posso tutto alla migliore del professore, dai. Io ti ho salutato. Sì, allora, quando sei disponibile mi fa molto piacere, dai. Ripeti, mai che fai girare. Se anche domani sera, se non ci vuoi di tempo lo facciamo. Non c'è problema. Ciao Daniele, alla prossima, un attimo un po'. Ma non senti a Falchetto un po'. Il passo di orario, senti, sono però 7 e mezzo, 8, ma come se tu una volta sembra che abbiamo tagliato le ali, per l'antenna sembra che abbiamo tagliato un picco le ali. Perché è macchina, hai capito? Ma è macchina, ecco perché io non lo sento un bel male. Abbiamo fatto come se ti vedo 9.30, adesso è tutta un'altra cosa. Siamo noi abituati, intendiamo. all'asse dell'aria. Mi arrivava oltre una per 30 a me, ero abituato a sentirlo così, tutto un colpo, lo sento basso. Già ci accontentiamo lo stesso, dai. Senti, va bene, il padre lo sentiamo, va. Meglio così. Ciao.